Ciao a tutte, a tutto e a tutti e ben ritrovati a noi con una nuova edizione di Autorue Pillole, questa volta in podcast, verso il 25 novembre. Abbiamo istituito una zona fucsia e siccome vogliamo che la nostra zona fucsia sia confortevole, sia una zona di piacere, abbiamo deciso di ricominciare a condividere letture, musica, pensieri. La puntata che condividiamo oggi ha come tema centrale quello della violenza e della fuoriuscita dalla violenza. E vi leggiamo quattro contributi. Cominciamo con uno stralcio dell'introduzione del piano femminista contro la violenza maschile sulle donne di genere di Non Una di Meno. Continuiamo con uno stralcio di King Kong Theory di Virginie Despont. Leggiamo poi La realtà che tutte le donne conoscono di Gretchen Kelly, tradotta da Batto i muri. E chiudiamo con L'orizzonte del desiderio di Lori Penny. Buon ascolto. Occorre smascherare la violenza propria dell'imperativo sociale che ingiunge di riprodurre i soli generi binari uomo-donna a sostegno di un'eterosessualità obbligatoria. Questa violenza, che noi definiamo violenza dei generi, impone di identificarsi con un maschile o un femminile universalmente dati, ossia con il genere assegnato alla nascita, e di adeguarsi al ruolo sociale per esso previsto. Comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder del control de los privilegios mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional, mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la psique. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, me explico. Tanto feminismo pa' un desierto tan normativo. Tantos discursitos pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidados. Con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Por el amor sí, pero del mal llevado. Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Hoy oprimida sí, mañana opresora. No soy digna al feminismo, darme la excomunión. Que soy una luz blanca, a veces escribí insulté por la cara. Me tardé mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frío de atravesar. Sé que pecaré de ser traidor, no ver lo que viven los demás. Siempre llorar lo que aún no he alcanzado. Y aún me gané las enemigas generando violencia entre las mías. Soy de la que critica por sexualizar el cuerpo y olvidarse listas como todo. Quiero ser pobre, quiero que me valoren. Voy a reventarme la voz en dos meses. Luego ni se acuerden que está de come. Déjate 24-7. Obsesionada por el arte, quiero ser perfecta. Pero sé que eso no existe. La incoherencia os va a matar. Hegemonía blanca. caca. Solo te mira y ya te callas. Esconden al papá, que es el que paga. Apunta a la nueva y no al que dispara. Boom. Vétame de tu ocupa, hey. Roja como Angela, hey. Cajela mis ideas. Cuántas de clase obrera. Interpélame, pero amorosamente. Nadie nace feminista, nadie nace consciente. Destiérrame, si ya lo he confesado. Lanza tú la piedra, nadie libre patriarcado. No me compares, no lo compares con un tío cis que pretenda violarte. No hablamos de dejarlo pasar, es acompañarse. Saber diferenciar la posición donde se ejerce. Prima, yo estoy haciendo arte para regalarte. Somos precarias, no cuestiones que exija mi parte. Que pa' cagarla sobra tiempo, me pongo en la lista. Bájame del pedestal, soy mala feminista. Traidoras, no hay piedad. La, la, la, la, la, la. Ha llegado vuestro final. Compañera, si tu fuerza de estallar, mantén la calma, mira dentro y lo verás. Soy esa hija que el mundo le hacen llevar sobre su costal. La King Kong Theory di Virginie Despentes. Rivolgersi alla polizia, se non per fregare un'assicurazione, era un gesto di cui mi sfuggiva il senso. D'istinto mi pareva che dichiararsi vittima di uno stupro in un commissariato equivalesse a rimettersi in pericolo. La legge degli sbirri è quella degli uomini. Poi una relatrice ha spiegato: nella maggior parte dei casi una donna che parla del proprio stupro all'inizio lo chiamerà in un altro modo. Tra me e me continua a sbuffare, stronzate. Tutto ciò mi sembra altamente improbabile. Perché mai non dovrebbero pronunciare quella parola? E la tizia che sta parlando, che ne sa? Cosa crede, che siamo tutti uguali? Poi a un tratto mi blocco. E io, cosa ho fatto finora? Le rare volte, per lo più ubriaca marcia, in cui ho deciso di parlarne, l'ho forse pronunciata quella parola? Mai. Le rare volte in cui ho cercato di raccontare la storia, ho evitato la parola stupro. Aggredita, raggirata, farsi incastrare, un incubo. Il punto è che finché non viene chiamata per nome, l'aggressione perde la sua specificità. Può essere confusa con altri tipi di aggressione, come subire una rapina a mano armata o essere arrestate dalla polizia, finire in stato di fermo o subire un pestaggio. Questa strategia della miopia ha la sua utilità, perché dal momento che chiamiamo il nostro stupro stupro, è tutto il sistema di controllo sulle donne che si mette in moto. Vuoi davvero che si sappia quello che ti è successo? Vuoi che tutti ti vedano come una donna a cui è successo? E comunque, come puoi esserne uscita viva senza essere una troia fatta e finita? Una donna che tenga la propria dignità avrebbe preferito farsi ammazzare. La mia sopravvivenza è di per sé una prova ai miei danni. Il fatto di essere più terrorizzata dall'idea che mi ammazzassero che traumatizzata dai colpi di rene di quei tre stronzi appariva come una cosa mostruosa. E io non ne avevo mai sentito parlare, da nessuna parte. Fortuna che, essendo una punk praticante, della mia purezza di donna per bene, potevo tranquillamente farne a meno. Perché da uno stupro bisogna rimanerne traumatizzate, c'è una serie di segni visibili da rispettare. Paura degli uomini, della notte, dell'autonomia, disgusto per il sesso e altre amenità. Te lo ripetono in tutte le salse, è grave, è un crimine, se lo scoprono, gli uomini che ti amano impazziranno di dolore e di rabbia. Lo stupro è anche un dialogo privato, in cui un uomo dichiara agli altri uomini e vi scippano le vostre donne. Ma per tutta una serie di ragioni il consiglio più saggio rimane: tienitelo per te. E quindi soffoca tra le tue due ingiunzioni. Crepa, troia, come si suol dire. Così la parola viene evitata, a causa di tutto quello che nasconde. Nel campo dell'aggredite, come tra gli aggressori, si gira intorno al termine. È un silenzio incrociato. To leave your menthol cigarettes on the kitchen floor. You know how much I hate your smoking and your asthma always acting up on a fool. You're never really on my mind. I just think of you from time to find. Can finally say I'm sleeping well at night. No need weed singing me a lullaby. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I wanna see you do nothing but the best. But in order to do that, I think it would be best. Never leave you on scene, block you off ever with this. Stop imagining that ring. I stop this as if drinking, hoping that I see you on the weekend. Going on my girl's phone to check your time. Stalking all them bitches that lock your profile. Lies your profile, not anymore. Your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG thumb for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love cause for you, boo. Love cause for you, boo. No, you ain't that cool. And your breath smell like you do. La realtà di cui tutte le donne hanno esperienza e che gli uomini non conoscono. Gretchen Kelly su goodmanproject.com, tradotto da Abbatto i muri. Uomini, è la vostra occasione di ascoltare ciò che le donne affrontano sin da quando sono troppo piccole. Quindi, ascoltate. Solo questo. C'è una cosa che accade tutte le volte che parlo o scrivo di problemi femminili. Intendo argomenti come dress code, cultura dello stupro e sessismo. Ricevo commenti come «Non ci sono cose più importanti di cui preoccuparsi? È davvero una questione così seria? Non è che sei troppo sensibile? Sei sicura di affrontare razionalmente la cosa?» Ogni singola volta. E ogni singola volta mi sento frustrata. Perché non capiscono? Credo di aver realizzato perché. Loro non sanno. Non sanno che ridimensioniamo, minimizziamo, ci adeguiamo in silenzio. Diamine, anche se come donne viviamo queste cose, non sempre ne siamo coscienti, ma lo abbiamo fatto tutte. Tutte abbiamo imparato, per istinto, per esperienza e per errore, come minimizzare una situazione che ci fa sentire a disagio, come evitare di irritare un uomo o di metterci in pericolo. Tutte, in molteplici occasioni, abbiamo ignorato un commento offensivo. Tutte abbiamo riso di un'avance inappropriata. Tutte abbiamo mandato giù la rabbia quando siamo state sminuite o trattate con sufficienza. Non è una sensazione piacevole, è nauseante, è pesante. Ma lo facciamo, perché non farlo potrebbe metterci in pericolo, potrebbe farci licenziare o farci chiamare cagne. Così, di solito, prendiamo la strada meno precaria. Non è qualcosa di cui parliamo ogni giorno, non ne parliamo ai nostri fidanzati, mariti, amici, tutte le volte che accade. Perché è così frequente, così pervasivo, che è diventato semplicemente qualcosa con cui facciamo i conti. Quindi, forse loro non sanno. Forse non sanno che alla tenera età di 13 anni abbiamo dovuto ignorare degli adulti che ci guardavano al seno. Forse non sanno che uomini dell'età dei nostri padri ci hanno provato con noi mentre facevamo le cassiere. Probabilmente non sanno che quel ragazzo al corso d'inglese ci ha mandato dei messaggi pieni di rabbia solo perché lo abbiamo respinto. Potrebbero non essere a conoscenza del fatto che il nostro relatore ci dà regolarmente pacche sul sedere. E di sicuro non sanno che la maggior parte delle volte sorridiamo a denti stretti, guardiamo da un'altra parte o fingiamo di non essercene accorte. È probabile che non abbiano idea di quanto spesso accadono queste cose. che queste piccole cose sono diventate la routine, che sono così previste che quasi non ce ne accorgiamo più. Così di routine che le ignoriamo e minimizziamo meccanicamente. Non mostriamo la nostra rabbia repressa, la paura, la frustrazione. Un sorrisino veloce o una risatina soffocata ci permetteranno di continuare la nostra giornata. Ridimensioniamo, minimizziamo. Dentro e fuori di noi. Dobbiamo farlo. Non passarci sopra ci metterebbe in condizione di scontrarci più spesso di quanto la maggior parte di noi riesca a fare. Impariamo a farlo fin da quando siamo piccole. Non abbiamo dato un nome, un'etichetta a questa cosa. Non abbiamo nemmeno badato al fatto che le altre ragazzine facevano lo stesso. Ma stavamo insegnando a noi stesse a padroneggiare l'arte del ridimensionare. Apprendevamo, osservando e valutando velocemente i rischi, come le nostre reazioni avrebbero o non avrebbero dovuto essere. Facciamo un elenco veloce. Lui ci sembra irascibile, arrabbiato? Ci sono altre persone qui intorno? Sembra ragionevole e sta solo cercando di essere simpatico, anche se non potrebbe essere meno capace? Sta per dire qualcosa che avrà un impatto sulla mia vita scolastica, sul mio lavoro, sulla mia reputazione? In pochi secondi determiniamo se rispondere qualcosa o se lasciarci scivolare tutto addosso, se sfidarlo o se girarci dall'altra parte, sorridere educatamente o fare finta di non aver sentito, visto, percepito. Succede sempre. E non sempre è chiaro se la situazione è pericolosa o innocua. È il capo che fa o dice qualcosa di inappropriato, è il cliente che tiene lontana la mancia finché non siamo costretti a sporgerci su di lui per prenderla. È l'amico che ha bevuto troppo e cerca di spingerci in un angolo per un momento di tromba amicizia, anche se abbiamo messo in chiaro che non siamo interessate. È il ragazzo che si infuria se rifiutiamo un appuntamento, un ballo, un drink. Lo vediamo accadere alle nostre amiche. Lo vediamo accadere in così tanti scenari e situazioni che diviene la norma. E non pensiamo nulla a riguardo, fino a quella volta che va tanto così dal diventare pericolosa. Finché non sentiamo dire che quell'amico che ci aveva spinto in un angolo è stato accusato di stupro il giorno dopo. Finché il nostro capo non mantiene la promessa di baciarci alla festa di Capodanno appena ci becca da solo in cucina. Queste sono le cose che potremmo raccontare ai nostri amici, ai nostri fidanzati, ai nostri mariti. Ma tutte le altre volte? Tutte le volte che ci siamo sentite a disagio o nervose, ma non è accaduto niente di più? Quelle volte in cui riprendiamo i nostri affari senza pensarci due volte? È la realtà dell'essere donne nel nostro mondo. È mettersi a ridere di fronte a un atteggiamento sessista perché sentivamo di non avere altra scelta. È avere la nausea di aver dovuto stare al gioco per tirarcene fuori. È sentire vergogna e rimorso di non aver risposto per le rime a quel ragazzo, quello che sembrava minaccioso, ma col senno di poi forse era inoffensivo. Forse. È tirare fuori il telefono col dito pronto sul tasto di chiamata quando camminiamo da sole di sera. È tenere le chiavi strette tra le dita nel caso in cui avessimo bisogno di un'arma mentre andiamo a prendere la macchina. È mentire e dire che abbiamo un fidanzato. Così un ragazzo accetterà un no come risposta. È essere in un bar affollato, a un concerto. E doversi girare per vedere chi è lo stronzo che ci ha appena palpeggiato il sedere. È sapere che anche se lo beccassimo non gli diremmo niente. È camminare nel parcheggio di un centro commerciale e rispondere educatamente «Buongiorno» quando un tizio sconosciuto passandoci accanto ci dice «Ciao». È fare finta di non sentirlo mentre ci insulta, perché non siamo fermate a parlare con lui. «Cos'è? Te la tiri troppo per parlarne con me? Che problemi hai?» «Pff, cagna». È non raccontarlo ai nostri amici, ai nostri genitori o ai nostri mariti, perché è semplicemente un dato di fatto, una parte delle nostre vite. È il ricordo che ci perseguita di quella volta che siamo state abusate, aggredite o violentate. È la storia che le nostre amiche ci raccontano, tra le lacrime che ci spezzano il cuore, di quella volta che sono state abusate, aggredite o violentate. È realizzare che i pericoli che percepiamo ogni volta che dobbiamo scegliere di confrontarci con queste situazioni non sono frutto della nostra immaginazione, perché conosciamo troppe donne che sono state abusate, aggredite o violentate. Di recente mi è venuto da pensare che molti uomini potrebbero non essere consapevoli di questo. Hanno sentito parlare di cose del genere, talvolta le avranno viste e saranno intervenuti per fermarle, ma forse non hanno idea di quanto spesso accadano. Non è detto che sappiano che influiscono su molto di quello che diciamo, che facciamo e su come lo facciamo. Forse dobbiamo spiegarlo meglio. Forse dobbiamo smettere di ignorare noi stesse e di minimizzare. I ragazzi che fanno spallucce o si deconcentrano quando una donna parla di sessismo nella nostra cultura? Forse non sono per forza cattivi ragazzi. Non hanno vissuto la nostra realtà, tutto qui. Noi non parliamo davvero di tutto quello che vediamo e viviamo ogni giorno. Quindi, come fanno a sapere? Dunque, forse gli uomini buoni che sono presenti nelle nostre vite non hanno idea che dobbiamo affrontare tutto questo regolarmente. Forse per noi è la norma a tal punto che non ci è venuto in mente che avremmo dovuto parlargliene. Ho pensato che non ne conoscono la portata, che non sempre capiscono che questa è la nostra realtà. Quindi sì, quando mi infurio per un commento che qualcuno fa per il vestitino corto di una ragazza, non sempre lo capiscono. Quando mi agito per tutto il sessismo quotidiano che vedo, che osservo e di cui sono testimone, quando sento le cose che mia figlia e le sue amiche stanno passando, non realizzano che questa è la punta di un iceberg molto più grande. Forse sto realizzando che non possiamo aspettarci che gli uomini capiscano quanto sia pervasivo il sessismo di ogni giorno, se non iniziamo a parlargliene e a indicarglielo quando si manifesta. Forse sto iniziando a realizzare che gli uomini non hanno idea del fatto che persino quando entriamo in un negozio le donne devono tenere alta la guardia. Dobbiamo essere istintivamente consapevoli di ciò che ci circonda e di ogni possibile minaccia. Forse inizio a capire che fare spallucce e non pensare che sia un grande problema non aiuterà nessuno. Non siamo abituati a ridimensionare. Abbiamo acuta coscienza della nostra vulnerabilità. Siamo consapevoli che se ne avesse avuto l'intenzione, quel tizio nel parcheggio avrebbe potuto sopraffarci e farci qualsiasi cosa avesse voluto. Ragazzi, questo è ciò che significa essere una donna. Siamo sessualizzate prima ancora di capire che cosa questo significhi. Ci sviluppiamo fisicamente come donne mentre le nostre menti sono ancora innocenti. Riceviamo occhiate e commenti prima ancora di avere l'età per prendere la patente. Da uomini adulti. Ci sentiamo a disagio, ma non sappiamo cosa fare, quindi andiamo avanti con le nostre vite. Impariamo presto che affrontare a muso duro ogni situazione che ci mette in imbarazzo potrebbe metterci in pericolo. Siamo consapevoli di essere spesso il genere più piccolo e fisicamente più debole, del fatto che ragazzi e uomini sono capaci di sopraffarsi se scelgono di farlo. Dunque, minimizziamo e ridimensioniamo. Quindi, la prossima volta che una donna vi racconterà di aver ricevuto bacini di apprezzamento, come si fa per chiamare un gatto, e che questa l'ha messa a disagio, non ignoratela, ascoltate. La prossima volta che vostra moglie si lamenta di essere stata chiamata amore al lavoro, non fate apaticamente spallucce, ascoltate. La prossima volta che leggete o sentite una donna che ha sfidato un linguaggio sessista, non sminuitela, ascoltate. La prossima volta che la vostra fidanzata vi racconta che un ragazzo le ha parlato in un modo che l'ha fatta sentire a disagio, non ignoratela, ascoltate. Ascoltate, perché la vostra realtà non è uguale alla sua. Ascoltate, perché le sue preoccupazioni sono concrete, non esagerate né eccessive. Ascoltate, perché la realtà è che lei, o qualcuno che lei conosce, in qualche momento della sua vita è stata abusata, aggredita o violentata. E lei sa che c'è sempre il pericolo che le accada. Ascoltate, perché un semplice commento di un estraneo può infondere brividi di terrore. Ascoltate, perché forse sta cercando di fare sì che la sua esperienza non sia quella delle sue figlie. Ascoltate, perché ascoltare non ha mai fatto male a nessuno. Ascoltate solo questo. These bitches not like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. You want some time on your hands, cause all that time you been hating. I know you mad that I'm famous, I know you mad that I made it. With all the time you been hating, you could've turned into something. Sometimes it works out for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous, I do this shit cause I love it. I shot an arrow, said fuck it, I took a chance, came from nothing. You have to go for it, warning, you have to rise up above it. If you go on expecting, well girl, I think that you bugging. How you want what I have? You ain't working yourself. That toxic energy shit ain't really good for your health. I think you need better goals, cause oh my god, you seem lost. You talking shit about my music, but what the fuck have you dropped? Now what the fuck have you done? Accolades, you have none. Your lazy ways get you none. I go and pray for you, hun. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. and doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. And the winner is Princess Nokia. I'm on the trend, I was soup. The razors men make a threat. I'm not a gangster, but I could tell you I love to throw hands. I'm racist, big as a scum. I don't like drama, it's dumb. I don't be fighting no women, I don't be toting no guns. I hate domestic abusers, in fact, they all make me sick. This dude for one, I'm a friend, I push him straight in his shit. I got a real code of honor that I take seriously. If Colin Kaep was a woman, then I'd be dead on one knee. My revolution is so full, I'm healing kids with my hands. I'm talking love in my people, not fighting bitches for bands. I got no hate in my heart, I think it's funny I rap. I did not bang in the streets and I did not trap in a trap. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. Did you like the pageant? Yeah. Do you like my crown? What do you like about it? I like the gems. I think it would look a lot better on you. What do you think? Yeah. Come here. La prima cosa da capire quando si parla di consenso è che il consenso non è in senso stretto una cosa. Non nello stesso modo in cui diciamo che il teletrasporto non è una cosa. Il consenso non è una cosa perché non è un oggetto, non si può possedere, non si può tenere in mano, non è un dono che può essere offerto e poi brutalmente requisito. Il consenso è uno stato dell'essere. Dare a qualcuno il proprio consenso dal punto di vista sessuale, politico e sociale è un po' come prestargli attenzione. È un processo continuo, è un'interazione tra due esseri umani. Credo che molti uomini e ragazzi non lo capiscano e credo che questa mancanza di comprensione causi traumi indicibili alle donne, agli uomini e a chi è stufo di quanto la sessualità umana possa ancora ferire. Lori Penny, L'orizzonte del desiderio. Esa niña no se aguanta, quiere todo porque el pussy sabe a Fanta. Si la dejas por pendejo se te casa, dale todo, dos de lengua y una horchata. Si te alcanza, I'm the shit, huh? Are you catching what I'm throwing for a pickup? Same bitch I always was, now I'm just richer. I'm about to shake it up and check the Richter. This a sticker. You say some things your numbers don't say. I got some kids with toys that don't play. Kilo de azúcar pa' mi conflex. I don't need roses, pour me rosé. No soy santa, baby yo soy vale madre, fuck a chancla. Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta. Y si quieres yo te enseño con el rampa pa pam, rampa pa pam pam. No soy santa, baby yo soy vale madre, fuck a chancla. Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta. Y si quieres yo te enseño con el rampa pa pam, rampa pa pam pam. Don't try to play me, baby. I'ma meet you a cana, which means I've been a Mexican snack and I'll split your banana. Solo yo sé mi rollo, guayaba, también sácate cana. Me encanta la línea de Fanta porque nadie me aguanta. Por eso I've been on my grind, on my grind. I've been on my grind. It's been cold and I've been on, but my name's Snow, I got it. And it's ice on my chest, you can suck a paleta if you hate. Aquí se respeto, te empaco maleta por no wey. No soy santa, baby, yo soy vale madre, fuck a chancla. Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta. Y si quieres yo te enseño con el rampa pa pam, rampa pa pam. No soy santa, baby yo soy vale madre, fuck a chancla. Lo que yo sí tengo mucho a ti te falta. Y si quieres yo te enseño con el rampa pa pam, rampa pa pam pam. I don't need roses, pour me rosé. Mami got rosaries and gon' pray. These kids got toys and no they don't play. Quiero un kilo de azúcar pa mi conflex. Look, I don't need roses, pour me rosé. Mami got rosaries and gon' pray. Kids got toys and no, they don't play. Quiero un kilo de azúcar pa' mi conflay. Tengo hipo.